Il gastronauta di Davide Paolini. Un caro saluto dal gastronauta. Bene, oggi tempo di vendemmia, siamo nei tempi di vendemmia, parliamo di vino in maniera particolare. Le guide al vino, bene, in Italia ce ne sono diverse, poi man mano le vedremo, ma sono utili queste guide? A chi servono? Al consumatore o ai produttori? O come mi ha scritto sul mio sito il gastronauta, che vedo qui, diciamo, ce l'ho sul video, qualcuno che mi dice dovrei aggiungere anche agli agenti che vendono vino e ai distributori. Forse è vero, è stata una dimenticanza, quindi mettiamo anche questo interrogativo. Bene, parleremo di questo con, appunto, dicevo, autori di guide, ma anche con giornalisti che non sono autori di guide, quindi sono completamente indipendenti, e poi il pubblico. Voi potete intervenire quando volete, numero verde 0800 24 0024, sms 349 238 6666, se volete intervenire anche sul sito Gastronauta o su Facebook Gastronauta, io l'ho qui sotto mano, quindi potete intervenire comunque con tutto. Bene, diamo inizio con, appunto, un indipendente, colui che magari è un grande osservatore di vino, ma non, diciamo, pubblica guide di vino. Buongiorno Alessandro Regoli, direttore di Wine News. Buongiorno Davide, buongiorno ascoltatori. Alessandro, allora, sono utili le guide ai vini? Ma direi che le guide dei vini servono ancora come trampolino di lancio per magari nuovissime aziende, purché non di dimensioni esagerate. Servono ancora le realtà produttive sui 250.000 bottiglie, le guide giudizi anche delle grandi riviste italiane, ma anche inglesi, statunitensi, tedesche, servono sui mercati sicuramente internazionali, sempre nel caso di aziende non enormi. Le guide però non sono più adeguate a fare il loro mestiere come lo facevano una volta, insomma, bisognerebbe un pochino rimettersi anche in discussione. Molto spesso lo fanno semplicemente per puro spirito conservatoristico, insomma, c'è una sorta di mancanza di coraggio, forse un po' di innovazione male non farebbe. Ma mi arriva già un sms: buongiorno, mi occupo di acquisti nel settore libri, negli ultimi anni le guide ai vini hanno registrato un forte calo delle vendite. Francesca da Milano. Bene, questa mi sembra già abbastanza importante, significativa. Bene, e abbiamo con noi, appunto, anche, ho detto, gli autori di guide. Abbiamo Franco Maria Ricci, che è l'inventore di Bebenda, dice, una guida importante redatta dai sommelier italiani. Buongiorno Franco. Buongiorno a voi ragazzi. Allora, sono ancora utile. Ho sentito del calo delle vendite, noi abbiamo aumentato. Bene, io leggo quello che mi viene dato, non posso certificare. Non posso certificare. Franco, sono inadeguate le guide, come dice le regole ormai? Sì, io credo proprio di sì. Io credo che non credo che serva molto trasmettere un vino è più buono o meno buono attraverso un punteggio. Tant'è che nacque 2000 vini con Bibenda come un libro guida, cioè noi volevamo non dare soltanto il nostro giudizio, che pur se opinabile è sempre fatto dai sommelier con una scuola e va alla pesca, però è sempre un discorso che uno magari assaggia e decide lui, il nostro lettore, se quel vino è buono o meno buono per lui. Il fatto di scrivere però un libro guida, cioè un libro in cui praticamente tu elenchi tutti i vini che l'azienda produce, che ne dai un giudizio, che ne dai soprattutto come è composto il vino, di quali vitigni sono composti, come si conserva il vino, qual è l'abbinamento del vino, cioè parlare di tutte le denominazioni di origine, sia dei vini che dei prodotti, delle DOP. Quindi è un libro molto essenziale. Questo 2000 vini ha un suo successo, molto probabilmente anche perché è completo, ecco. Dare il punteggio così, sì, sono anch'io perplesso, ecco, in questo momento, anche un momento storico che stiamo vivendo, per alcuni versi anche deontologicamente poco in, insomma, una serie di cose che convengo assolutamente nell'idea di Alessandro. Bene, sentiamo Mirko da Milano, radioascoltatore. Buongiorno Mirko. Buongiorno a lei Davide, complimenti per la trasmissione innanzitutto. Dica. Sono completamente d'accordo con due persone che hanno parlato in questo momento, anche perché il vino secondo me è un qualcosa di vivo e di soggettivo. Metterlo su un pezzo di carta lo va a uccidere. Bene, quindi lei dice che bisognerebbe renderlo più vivo, insomma, mi sembra di capire. Assolutamente sì. Bene. Toglierlo dalla carta e farlo vivere un po' di più la gente. Alessandro, cosa ne pensi? Sono d'accordo, cercherei, e Franco per esempio lì ce lo sta facendo un grande lavoro con i sommelier, perché probabilmente ha capito una cosa che è fondamentale, che è quello di sviluppare la cultura del wine and food, è quello che dobbiamo fare, cioè dobbiamo probabilmente tornare un po' alle origini, portare questo settore anche nel mondo della scuola, delle scuole superiori nel caso del vino magari, ma iniziare a tornare un po' alle origini, anche dare cultura dell'agricoltura, del food anche nelle classi elementari o medie, quello che dobbiamo secondo me fare, allargare il nostro mondo, non restringerlo. Bene, raccontare, questo non vuol dire che le guide sono tutte da buttare o che vanno, secondo me vanno necessariamente un po' riviste, un po' cambiate, questa è la mia idea. Franco, Maria Ricci, però anche Bibenda dà i voti. Certo, quello secondo me è un valore aggiunto, forse è un piccolo valore. Io stimo molto, ovviamente parlo bene di noi, stimo molto il concetto della guida, perché è un concetto culturale, perché è fatto dal punto di vista culturale. Per me il vino va vissuto, come diceva prima il collega che ha parlato, attraverso il bicchiere. Noi dobbiamo sentire questa sensazione attraverso i bicchieri. La guida è soltanto un mezzo culturale per poter fare gli acquisti, è questo che si propone 2000 vini. È chiaro che mettere un punteggio è un'altra cosa in più, ne ho dette 10 prima, sono 10 e l'undicesima è anche il punteggio. Bene, grazie Alessandro Regoli e Franco Maria Ricci, sentiamo Oscar da Bologna, sono tanti i radioascoltatori, vuol dire che l'interesse c'è. Oscar, buongiorno. Salve, buongiorno signor Paolini. Io volevo semplicemente riferirmi più che alle guide, ai servizi giornalistici, sui quotidiani soprattutto, che ogni anno si ripete la formula che è una vendemmia fenomenale, che è migliore della precedente e così via. Niente, questa è una cosa che sicuramente io credo che al ben pensante lo confonde un po', perché il clima non è tutti gli anni la stessa cosa. Beh, e difficilmente possiamo ottenere delle vendemmie fenomenali ogni anno. Oscar, guardi, lei mi ha preceduto, perché una delle mie intenzioni era di fare una trasmissione su, ma anche quest'anno è la vendemmia del secolo, perché anch'io sono stufo di sentire molti enologi, molti produttori e molti commentatori che ogni anno scrivono che è la vendemmia del secolo, quando ovviamente ce n'è una solo e chissà, magari potrebbe essere anche la prossima. Grazie, sentiamo Dennis da Mantova. Buongiorno Dennis. Buongiorno signor Davide, io sono un piccolo ristoratore e esperienza personale, da 35 anni faccio questo mestiere, grazie alle guide, partendo da 30 anni fa, ho potuto imparare, conoscere, inserirmi, e, insomma, senza internet, senza cellulari, anni fa erano le uniche cose che ci permettevano di entrare nel mondo enologico. E guide al vino sono utili a chi? Al consumatore, ai produttori oppure anche ai distributori e ai commercianti, e anche ai venditori, perché no? E questo è un po' l'interrogativo sollevato. Abbiamo sentito già dai primi interventi anche dei radioascoltatori, cominciano ad essere inadeguati, bisognerebbe fare dei cambiamenti. E allora io questa domanda la rivolgo proprio a un personaggio che è stato uno degli inventori sicuramente di una guida che ha avuto un successo molto forte in questi anni e che ora diciamo non fa più parte di questa guida, quindi ha intrapreso altre strade. Buongiorno a Daniele Cernilli. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Daniele, sono inadeguate le guide oggi? No, secondo me non sono affatto inadeguate. Sono degli strumenti, probabilmente sono state enfatizzate in passato, allora questo è un altro discorso. In realtà ci sono delle squadre di assaggiatori che vengono dal pubblico, non sono degli assaggiatori professionisti, non sono degli enologi ad esempio, non sono dei produttori di vino, sono esattamente i rappresentanti dei lettori stessi che assaggiano dei vini in degustazioni coperte e li valutano e li mettono a confronto uno con l'altro. Ovviamente io non credo che ci sia niente di nuovo da fare, quello che c'è da fare è semplicemente di cercare di fare una selezione adeguata. I produttori sono molti di più rispetto a quei quanti erano 20 anni fa, oggi la guida del Gambero Rosso ha 2250 produttori schedati, quella di 2000 vini a cui collaboro oggi della Bibenda Associazione Sommelier ne ha 1700. Mi ricordo che quando siamo partiti con il Gambero Rosso erano 450 i produttori e 1500 i vini assaggiati, oggi sono più di 20.000, quindi è più complesso fare delle guide ovviamente, ma non credo che siano inadeguate. Bene, io devo leggere, purtroppo devo leggere gli sms che sono molto duri e lanciano delle accuse. Io dico, sono accuse lanciate dai radioascoltatori e me ne, diciamo, non voglio assolutamente esserne parte. Buongiorno, sono Antonio e faccio l'enologo da 30 anni. I punteggi sono sbagliati, comprati a volte. Traspare questo purtroppo. Le guide ok, ma i punteggi sono dati spesso da incompetenti. Bene, mi sembra un po' troppo tranchant questa, diciamo, ma, questa... Io credo che ci siano pochi enologi in Italia che siano in grado veramente di valutare dei vini. Tanto è vero che quando sono stati invitati nelle degustazioni molti non sono neanche riusciti a riconoscere quelli che avevano fatto loro. Bene. Quindi bene. Voglio dire, bisogna anche vedere da che pulpito certo, viene certo. L'accusa. E poi gli sms francamente sono una piccola parte del pubblico, poco rappresentativa. Sì, sì, sì, sicuramente, ma ce ne sono 4-5 dello stesso tenore, come ce ne sono altri 4-5 di questo tenore. Servono a chi li fa, purtroppo fanno pari dei concorsi lievitare i prezzi in maniera assurda. Quindi anche questa, lo chiedo a Fabio Turchetti, tu condividi queste, diciamo quest'ultima, perché l'altra sicuramente lascia il tempo che trova, cioè il discorso della lievitazione dei prezzi. Fabio Turchetti, responsabile della rubrica vino del Messaggero. Buongiorno a tutti, Davide. Allora, dunque, mi ricollego innanzitutto a quanto diceva Daniele, che mi ha un po' spianato la strada. La messa in discussione del successo delle guide è legata al fatto, paradossalmente, potrei dire di una certa inflazione, i vini sono aumentati, la qualità è aumentata, sono sempre di più i vini premiati, poi con la rapidità delle comunicazioni oramai molti fanno e disfano, scrivono o ritengono di poterlo fare o danno giudizi, insomma alla fine nel marasma della comunicazione poi magari un certo unitore si è perso o comunque i messaggi sono tanti e il consumatore è un po' distratto. Io mi permetto, prima di fare un riferimento ai prezzi, mi permetto di ricordare un episodio al quale ho assistito più volte, cioè quando, per citare gloriosissima dagli inizi, la guida del Gambero Rosso, veramente importantissima in Italia, con l'amico Daniele e non solo, quando un vino riceveva i 3 bicchieri c'era la caccia da parte degli enotecari per averlo. Oggi ci sono talvolta gli agenti, i rappresentanti che faticano per dire guarda adesso ti propongo, all'esercente, ti propongo il vino, questo ha vinto i 3 bicchieri e il notario dice vabbè cioè, adesso non fa più notizia forse un 3 bicchieri o un altro premio o quello che sia e quindi questo anche però per il crescente, la qualità crescente dei vini italiani è un po' insomma un'arma a doppio taglio, quella del prezzo riguarda molti aspetti dell'enogastronomia nazionale, oggi si danno premi al vino quotidiano, al vino di tutti i giorni, come se questa non debba essere più la norma, come se sia l'eccezione e questo è un po' un controsenso forse. No? Ecco, sentiamo Massimo da Roma, un radioascoltatore, buongiorno Massimo. Buongiorno, io volevo intervenire in relazione praticamente alle guide. Io le dico, io ho una guida, la 2000 vini, che la seguo e quando faccio dei viaggi volentieri insomma valuto praticamente la tipologia di vino e soprattutto delle cantine, quindi diciamo la utilizzo tantissimo, ma perché mi piace comunque poi andare a scoprire cose nuove, quindi diciamo per me è importante. Sono d'accordo diciamo sul punteggio dei vini, che molto spesso può essere un po' mirato oppure gonfiato rispetto a certe realtà, però effettivamente è uno strumento secondo me utile per indirizzarti nel momento in cui fai dei viaggi anche verso delle cantine, quindi da questo punto di vista sono favorevole. Invece una cosa che volevo dire è che secondo me è importante, si ricollega praticamente un po' alla cultura del vino di cui se ne è parlato inizialmente, riportarlo un po' anche nelle scuole, soprattutto quelle là, diciamo anche nelle scuole medie, fare la tipica gita che si fa per poter andare a visitare anche degli aspetti che riguardano l'enogastronomia sarebbe molto molto importante. Bene, grazie Massimo da Roma, ricordo numero verde 800 24 00 24, messaggi sms 3 49 238 6666. Voglio leggere invece un intervento sul sito Gastronauta, mi chiede un'idea guide senza punteggi, interrogativo. Daniele, tu cosa ne pensi? Tutto il male del mondo, il punteggio è un giudizio sintetico ed è quello che serve al consumatore, noi assaggiamo per conto dei consumatori, questo è il senso delle guide ovviamente. assaggiare per conto dei consumatori significa anche assaggiare onestamente, quindi assaggiare con la, mettere a disposizione la propria competenza a chi poi vuole leggere le guide. Ovviamente le guide non sono dei Vangeli, non sono delle, sono da prendere cum grano salis, ovviamente sono da prendere rispetto anche a quelli che sono le proprie inclinazioni, perché non esiste una verità o una qualità unica, ma si declina in tanti modi, tante sono le teste e le lingue degli assaggiatori, evidentemente, e anche dei consumatori. Quindi direi che i punteggi sono indicativi, sono importanti perché danno sinteticamente un giudizio che può essere appunto valutato da tutti ed è anche sotto il controllo di tutti quanti. Fare i giudizi mi sembra una cosa un pochino più aleatoria, facciamoli sulle persone i giudizi ma non sui vini. Bene, sentiamo il campione del mondo dei sommelier, Luca Gardini. Buongiorno Luca, tu cosa ne pensi delle guide al vino? Servono a chi? A chi possono servire le guide? Beh, le guide servono a tante persone, soprattutto ai lettori e ai consumatori finali, quelle persone che hanno bisogno di un indirizzo enologico ed enogastronomico per andare a cercare le novità enologiche sul vino. Quindi secondo te sono utili? Sì, sono utili, diciamo, nell'ultimo periodo c'è stato anche queste guide hanno fatto anche parlare un po' in negativo, però a mio avviso sono utili perché ti danno meno male un indirizzo di quello che, come sta andando il mondo enologico italiano e delle novità che si possono essere nel corso degli anni, anche se a volte incappano alcuni errori clamorosi che non dovrebbero fare, però le guide servono. Ecco, tu quando vedi, diciamo, in questo periodo che le guide danno i loro risultati finali con, diciamo, i vini eletti, tu ti trovi spesso d'accordo o spesso in disaccordo? Beh, devo dire che in grandi linee mi trovo d'accordo e disaccordo nello stesso tempo, nel senso ci sono alcune guide che sono molto molto molto valide, molto, molto competenti, che hanno uno staff di degustatori veramente vari, altre un po' meno, però diciamo che oggi il livello è molto buono in Italia. Bene, sentiamo un radioascoltatore, Claudio da Pistoia. Buongiorno Claudio. Buongiorno Davide, intanto ci siamo conosciuti in diverse occasioni, ti stimo sempre, ti seguo con grande passione. Io sono un sommelier non importante come il grande Gardini, faccio tutt'altro nella vita, sono sommelier per passione e ho tanti amici che producono vino in Toscana e purtroppo alcuni mi dicono che per entrare nelle guide non chiedono soldi per il punteggio ma magari pubblicità o grossi quantitativi di vino e alcuni piccoli produttori purtroppo ne restano. Claudio, io ti devo ricordare che queste sono affermazioni sotto la tua responsabilità. Assolutamente, assolutamente, certo. Purtroppo credo che per tanti piccoli produttori che fanno delle cose incredibili e di grandissima qualità, come tu sempre sottolinei e ci fai scoprire, sia veramente difficile entrare in queste guide, ecco. Questa è la mia testimonianza. Beh, ora guardi, proseguiremo con altri autori di guide e chiederemo qual è il modo per accedere alle guide anche di magari di produttori sconosciuti o d'altro, perché mi sembra anche giusto chiedere questo. E volevo chiedere a Fabio Turchetti rispetto a questo ultimo intervento cosa ne pensa. Insomma, io trovo che quando si fanno affermazioni appunto comunque pesanti, affermando che o quello è corrotto o bisogna faticare o qualcosa, c'è anche un po' di, oltre che di acredito o di malanimo da parte di qualcuno, anche appunto però una mancata conoscenza dell'eventuale organizzazione o struttura di una guida o di chi degusta. Si può mettere in discussione un parere, poi per l'amor di Dio ci sarà sicuramente la mela marcia fra tante in qualunque settore e ahimè può succedere di tutto, però insomma il essere, far parte di una guida è frutto di meccanismi, di dinamiche, di assaggi, di confronti, insomma chi ne esce eventualmente scornato non la deve buttare né sul personale, né poi chi avesse prove da mostrare lo faccia, noi siamo i primi ad esserne contenti, se qualcuno ahimè ha fatto cose che non doveva fare è giusto che paghi, ma insomma non si può generalizzare. No? Daniele, ti do un minuto su questo. Guarda, sono stupidaggini, sono veramente delle stupidaggini queste qui. Io sono stato con incarichi di prim'ordine in due guide che sono le più importanti d'Italia, prima la Gambro e adesso 2000 vini, e devo dire che i piccoli produttori, se hanno una possibilità di essere veicolati come informazione, è proprio attraverso le guide, perché non devono fare altro che mandare due bottiglie in degustazione, quindi non è niente di strano, non c'è niente di particolarmente demoniaco. Il problema è un altro in Italia probabilmente, ed è per questo che le guide forse incidono un po' meno rispetto al passato. Il primo, abbiamo 7 guide in Italia, 7 guide sono troppe, non c'è nessun paese al mondo, neanche in Francia hanno 7 guide dei vini, forse questo è un problema. Esistono 2, forse 3 guide che sono realmente presenti sul mercato, le altre 4 sono meno incisive. Il resto, con il tempo sono stati premiati molti vini, perché? Perché aumenta la base di analisi e quindi ovviamente aumentano anche i premiati. C'è sempre un rapporto di 1 a 100 più o meno rispetto ai premi di tutte e due le guide di cui mi sono occupato, 100 assaggi per un premio, ma se gli assaggi, la base di assaggi aumenta, evidentemente aumentano i premi. Questo forse è un problema, forse da un certo punto di vista bisognerebbe alzare l'asticella, ma anche questo è un'altra questione abbastanza difficile, perché alzare l'asticella significa dare dei punteggi molto precisi, e dare dei punteggi molto precisi significa darli anche molto soggettivi. Continuiamo nel nostro discorso, sono molti anche radioascoltatori che sono in linea, io prego di attendere che abbiamo anche degli ospiti, e vorrei cominciare da Franco Zigliani. Abbiamo un giornalista che non partecipa più a guide e abbiamo Enzo Vizzeri, un direttore delle guide dell'Espresso. Zigliani, a te hai l'interrogativo, a che cosa servono le guide dei vini? Buongiorno a tutti. A cosa servono le guide dei vini? Sì. Oggi non servono a niente. Dovrebbero servire le guide per fornire indicazioni utili al consumatore. Avrebbero dovuto esserlo nella loro storia da 25 anni, 30 anni a questa parte. Sono venute meno a questo loro compito fondamentale. Io non vorrei parlare di corda in casa dell'impiccato, sono intervenuti i responsabili di guide, c'è in linea l'amico Enzo Vizzeri che è responsabile di tutte le guide del gruppo Espresso. Resta il fatto che oltre agli errori clamorosi, chiamiamoli errori di percorso, chiamiamoli sfondoni, non chiamiamoli come li hanno chiamati gli ascoltatori che sono intervenuti, ci sono state delle cose un po' strane, sono successe, voglio solo indicare così degli errori clamorosi di valutazione, non altro, non voglio dire altro, però ricordo che le varie guide italiane nell'epoca pre-Brunellopoli continuavano a premiare i Brunello di Montalcino più stravaganti, quelli dai colori più imprevedibili, quelli che strano di aziende che vedi caso poi sono finiti nel mirino delle inchieste della Procura di Siena. Effettivamente allora questi degustatori non erano poi così bravi a degustare se non si accorgevano che c'era qualcosa di strano in quei vini. Però questo detto en passant, non voglio esagerare bene, allora... ricordare perché sarebbe un lungo discorso, però quello che voglio dire è che a mio avviso anche le guide meglio fatte, secondo me la guida dell'Espresso è una guida fatta al meglio. Io se dovessi oggi consigliare a un lettore, spesso gente che legge il mio blog Vino al Vino mi chiede un parere sulle guide e mi chiede qual è la meno peggio o la migliore secondo te, io indico sempre la guida dell'Espresso. L'anno scorso io ho partecipato, dopo oltre 20 anni che non avevo più a che fare con le guide, alla prima edizione della guida di Slow Food. Quest'anno non ho partecipato perché io sono un solista e nel discorso generale delle guide non mi ci ritrovo. Quello che trovo significativo da dire, secondo me, a parte il fatto che non credo che le guide abbiano assaggiato per conto dei lettori in questi anni, molto spesso mi sembrava che le guide assaggiassero per conto dei produttori. Voglio dire che oggi le guide sono superate, a mio avviso, perché nell'epoca dell'informazione diffusa, indipendente, libera, assolutamente libera da ogni condizionamento pubblicitario rappresentata da internet, da siti e blog che sono sempre più seguiti e sempre più autorevoli, le guide sono vecchie. Bene. Propongono un sistema vecchio. Ora ti fermo, Franco, do la parola anche a Vizzeri. Buongiorno a tutti. Innanzitutto io devo chiedere scusa, non ho avuto modo di sentire quanto è stato detto fino a questo momento perché ero in viaggio e quindi mi permetto di davvero di intervenire senza saper nulla di quanto è stato detto. Quindi dimmi pure. Ma niente, il discorso è: sono ancora attuali le guide? A chi servono? Al consumatore, ai produttori o, come molti radioascoltatori scrivono, agli agenti di commercio e ai venditori? Ma io ho sentito l'ultima parte adesso di quanto diceva Franco Zigliani, che mi pare riassuma un'opinione piuttosto diffusa. Naturalmente lo ringrazio per gli apprezzamenti positivi riguardanti la guida dell'Espresso. Voglio fare una brevissima premessa. Io non riesco, è più forte di me, chiedo anche scusa, a parlare di guide. Io, nella migliore delle ipotesi, se posso, a malapena riesco a parlare e voglio parlare di quelle delle quali ho la responsabilità. Per quanto mi riguarda, l'ultima cosa che noi vogliamo fare facendo una guida dei vini, peraltro vale anche per la guida dei ristoranti, è fare una cosa per i produttori. Le guide, la guida, quando dico le guide parlo delle mie guide, certo. Attenzione. Parliamo della guida dei vini e basta, ora non dei ristoranti. Ecco, ma direi che il concetto sì. È lo stesso, sono fatte non essenzialmente, esclusivamente per i lettori, per il cliente più o meno avveduto potenziale, per l'addetto ai lavori anche, che può trovare delle informazioni sistematizzate, ma soprattutto servono a dare informazioni e, per chi le vuole cercare, indicazioni e suggerimenti ai lettori. Questa è l'unica finalità di una guida dei vini come la nostra, che è fatta da un editore puro, che non ha nessun'altra finalità che di fare dell'informazione. Riprendo una parte di quanto ho ascoltato detto da Franco Zigliani. Non riesco assolutamente a capire e a condividere questa netta dicotomia, questa affermazione che mi pare non motivata, cioè le guide non servono più, le guide sono superate da internet. Ma chi l'ha detto? L'autorevolezza di un opinionista, e questo vale per il vino, come per i ristoranti, come per la politica, come per il teatro, come per il cinema, come per l'opera lirica, come per le canzonette, l'autorevolezza di un opinionista, e chi fa le guide, parlo delle guide dell'Espresso, sono giornalisti qualificati e quindi degli opinionisti, viene dalla serietà e dal rigore e di conseguenza dall'attendibilità che si conquista nei confronti dei lettori, non dal mezzo attraverso il quale queste opinioni vengono manifestate. Non c'è una dicotomia, non è vero che internet supera la guida / le guide, perché le guide stesse hanno anche, avranno sempre di più, un modo di presentarsi, di manifestarsi anche in rete, e a quel punto voglio sapere cosa diranno i sostenitori del fatto che le guide di carta sono superate. Quello che conta è che ci siano delle verifiche attendibili, garantite, di serietà, delle opinioni leggibili, poi che vengano espresse stampando la carta o vengano espresse nella rete, francamente mi sembra del tutto secondario. Abbiamo con noi, appunto, dicevo, Carlo Cambi. Allora, Carlo Cambi, gli chiedo: Carlo, cosa ne pensi? Io ho l'interrogativo messo perché è venuto dai radioascoltatori. Sono ancora utili? A chi servono? Al consumatore, al produttore, agli agenti di commercio, come molti mi scrivono? Addirittura ho ricevuto tanti sms che mi danno cifre, mi danno tutta una serie di cose un po' strane delle guide, non le leggo perché sicuramente non mi assumo la responsabilità. A te, Carlo. Allora, le guide secondo me hanno storicamente svolto una funzione imprescindibile, e Gambero Rosso in questo è stato anticipatore, una tendenza che peraltro in altri mercati, pensa alla Francia, aveva già preso piede. Oggi secondo me hanno perduto quella funzione centrale di educazione al gusto, anche perché gli appassionati di vino hanno delle loro opinioni, poi si sono moltiplicate le occasioni di informazione, restano però utili a che cosa? Ad orientare sostanzialmente il mercato, con un'avvertenza. Tu sai che io sono abbastanza critico verso le guide, l'ho scritto anche oggi sul Libero Gusto, c'è un problema di trasparenza dei giudizi e di archetipo rispetto al quale poi si esprime il giudizio. Detto tutto questo, non mi straccerei tanto le vesti per un premio ricevuto o non ricevuto, perché poi in realtà è il mercato che determina il successo dei vini. Ci sono dei vini strapremiati dalle guide che hanno ballato una sola estate, dei vini che non sono mai entrati fra i top delle guide e che si vendono benissimo. Dunque diciamo che la funzione della guida è prima di tutto quella di orientare, a condizione che chi fa la guida non pretenda di sostituirsi all'enologo e non dia comandamenti alle aziende. Bene, io voglio chiedere a Marco Sabellico se ritiene che ancora, cioè, le guide abbiano una loro funzione così come sono fatte o devono essere in movimento, devono essere viste in qualche modo. Buongiorno Marco. Buongiorno a tutti, un saluto. Allora, le guide sono uno strumento dinamico, devono essere uno strumento dinamico, devono avere la capacità di rinnovarsi per adeguarsi ai tempi. Noi siamo una grande squadra, 80 persone, c'è un incredibile dialogo, c'è un incredibile confronto, giriamo, viaggiamo, assaggiamo insieme, discutiamo, litighiamo, eccetera. E quindi crediamo di essere abbastanza sulla palla, noi non degustiamo da soli, siamo sempre in gruppo, sempre presso organismi istituzionali e quindi, insomma, voglio dire, il giudice monocratico non esiste da noi, sono tutte decisioni collegiali, anche la direzione della guida è condivisa tra me, Eleonora Guerini, Gianni Fabrizio, siamo un triunvirato, insomma, e siamo esponenti, ecco, la punta dell'iceberg di un gruppo di 70 persone che fa questo con un'assoluta passione. Detto questo, cambiano i criteri di valutazione nel corso degli anni, cambiano le tendenze, il modo di pensare, di fare il vino. Il numero di aprile scorso l'abbiamo dedicato proprio all'analisi di questo fenomeno, quindi c'è un'evoluzione costante del gusto, noi la raccontiamo da cronisti, non pretendiamo di dare suggerimenti, consigli, vogliamo soltanto intercettare e dare forse qualche suggerimento quando si tratta di sostenibilità, di eticità del mercato, quando si tratta di ecologia, di salubrità del prodotto, ecco, in questo forse noi ci sentiamo di poter dire qualcosa, ma sullo stile del vino ogni produttore, ogni consumatore è libero di scegliere quello che vuole, anche noi diciamo la nostra. Bene, sentiamo Catherine dalla provincia di Pavia, buongiorno Catherine. Buongiorno Davide, sono Catherine Walter, rappresentante della guida online di Wine Plus che è pensato e creato e seguito in Germania. E tanti produttori che ascoltano la conoscono sicuramente. Infatti io vorrei un po' modificare la domanda e dire: servono le guide ancora come sono oggi? Perché è adorabile quel Massimo che ha chiamato prima e diceva che chi segue va in giro con un libro che pesa 3 kg e diciamo è quasi ho una certa tenacia a sentirlo. Oggi, soprattutto in Italia, un paese dove la maggior parte ha due telefoni, due smartphone, e oggi tutto il mondo si sposta in internet, e internet ovviamente vuole anche dire una grande diffusione. Infatti seguire i tanti blogger è anche, diciamo, un po' problematico per il tempo che uno ha, perché l'amatore del vino mediamente e qualcuno che deve anche lavorare, non è che si può mettere in internet e può leggere migliaia di commenti e poi è molto confuso. Infatti, proprio perché c'è una grande confusione, oggi serve una fonte credibile dove si trova, diciamo, tutto in un posto. Grazie Catherine, perché devo dare voce anche a Fulvio da Pisa prima di chiudere. Pronto, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Una cosa rapida, una domanda. Ho notato che evidentemente non c'è uno standard, diciamo, relativo a un ente terzo di controllo sull'attività delle guide, e questo che piacerebbe sapere se c'è e cosa si potrebbe fare in merito. La seconda affermazione è che, chiaro, ai singoli intervenuti è chiaro che l'affermazione di quella della persona intervenuta che diceva che si poteva magari spingere un po' più il giudizio sotto forma di regali, e diciamo il mio punto di vista è questo, rapidamente, che per le persone presenti certo do il beneficio del dubbio, per loro sarà un'assurdità, ma in questo paese, in questo frangente, credere che anche in questo settore non ci siano fenomeni di questo genere, scusate, liquidarlo come un'assurdità mi fa piegare in due dalle risate. Bene, grazie Fulvio da Pisa, purtroppo chiuso, non posso ridare la parola né a Marco Sabellico né a Carlo Cambi, che ringrazio della loro partecipazione, ma ne erano stati molto esaustivi. Quindi devo dire che appunto siamo pieni di SMS con molti dubbi e molti interrogativi, ma ovviamente in 45 minuti, 50 minuti non si può rispondere a tutto. Magari, perché no, si potrebbe anche ritornare sull'argomento, perché vedo che interessa veramente molto, e magari dopo la vendemmia, per vedere, ridendo e scherzando, se anche questa è la vendemmia del secolo, se qualcuno ci crede ancora. A proposito, mi ha scritto un agronomo, dice che devono essere loro a giudicare se è la nata del secolo. Sì, caro signore, ma in realtà sui giornali appaiono solamente enologi e produttori. Non vedo mai gli agronomi a intervenire, quindi io ho parlato di enologi perché vedo le loro dichiarazioni e non vedo quella degli agronomi. Comunque grazie, grazie a tutti, soprattutto ai radioascoltatori che sono intervenuti con SMS e soprattutto con le telefonate. Io vi do appuntamento ogni giorno con la pillola delle 11.05 e delle 23.05. Ricordo, chi vuole continuare questa discussione può farlo www.gastronauta.it oppure Gastronauta Facebook, quindi potremo continuare a discuterne sicuramente a lungo. Buona giornata a tutti.